voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Pagano, case in legno extra lusso, di Andrea Ferro. Dai carretti e dai gozzi alle case prefabbricate di pregio. Protagonisti di questa storia sono il legno, da lavorare e adattare a ogni uso e forma, e una famiglia, la famiglia Pagano, che ha fatto di questo materiale il filo conduttore di una lunga esperienza imprenditoriale. Oggi Pagano è un marchio conosciuto in tutto il mondo nel settore dell'edilizia moderna ed ecosostenibile, sinonimo di classe ed eleganza rigorosamente nel segno del Made in Italy. A raccontare questa trama di vita e di impresa tra Campania, Lazio e Abruzzo è Andrea Pagano, oggi amministratore delegato dell'azienda di famiglia. Questa storia inizia 3 generazioni fa. Mio nonno, Biagio, una grandissima persona che abitava nella costiera amalfitana, realizzava carretti, i famosi carretti che portavano la frutta all'epoca. E quindi ci voleva una maestria artigiana unica, perché doveva lavorare il legno e renderlo dinamico. Lì nasce, come dire, l'approccio al legno della famiglia Pagano. Persona famosissima che tra l'altro dopo i carretti si è avvicinato anche ai gozzi, ed è lì che mio padre ha preso tutti i fondamenta del legno dinamico, diventandone veramente un fautore. Stiamo parlando a cavallo della guerra, quindi nel 1930 fino al 1940-45, che poi la mia famiglia si trasferisce a Roma dalla costiera amalfitana. Una volta nella capitale, per la famiglia Pagano il rapporto con il legno è declinato in un nuovo ambito. Vincenzo, figlio di Biagio e padre di Andrea, assorbe la maestria e la voglia di fare del padre e la orienta verso il restauro dei mobili, formando una vera e propria scuola di artigiani specializzati in questo tipo di lavorazioni. Mio padre, un uomo di grandissimo intuito e grandissima passione, inizia a restaurare tutti i mobili antichi della vecchia borghesia romana, dalle boiserie ai grandi tavoli, e diventò famoso perché aveva una conoscenza del legno unica sul mercato romano. Lui girava un po' tutti quanti i quartieri, aveva la sua base all'Eur, aveva fatto un atelier che poi negli anni 60 diventò famosissima, dove aveva questi 10 artigiani che aveva cresciuto e che restauravano tutti questi pezzi unici che riusciva a trovare nelle dimore dei nobili romani. Nella seconda metà degli anni 70, la storia imprenditoriale della famiglia Pagano arriva a un punto di svolta che segnerà un nuovo corso. Vincenzo Pagano sviluppa ancora un nuovo modo di lavorare e utilizzare il legno, come ci racconta il figlio e attuale amministratore delegato dell'azienda, Andrea Pagano. E poi c'è stato il grande salto, perché probabilmente i mobili non abbastavano ed ha incominciato a realizzare dei chalet. E quindi si è avvicinato al mondo delle costruzioni, ha comprato dei terreni alle porte di Roma e ha fatto dei villaggi fantastici, tutti quanti in legno. Dopodiché, siamo entrati in azienda io e mio fratello. Ovviamente noi siamo cresciuti nella falegnameria, abbiamo, come dire, respirato segatura. E abbiamo apportato anche l'avvento un po' delle tecnologie, del design. Abbiamo incominciato a vedere come si sviluppava il mondo, ci siamo un po' rifatti a Wright, Miss Van der Rohe, portando, come dire, una nuova visione del costruire il legno. E poi, per poter far questo, abbiamo dovuto realizzare la fabbrica intelligente. Noi negli anni 90 abbiamo informatizzato tutto il processo produttivo, cioè già dal 1990 noi realizzavamo ville, alberghi, strutture che erano ognuno differente dall'altra. Già nel 1990 realizzammo in Russia, e le dico per la figlia del presidente e dell'epoca, una villa di 4.000 metri quadrati. Dalla Russia all'America, da Miami a New York, passando per l'Africa e il Giappone. Le case in legno marchiate Pagano prendono forma un po' ovunque, attraverso l'uso dei materiali più pregiati, adattando la struttura alle caratteristiche del luogo, alle esigenze e alle preferenze di chi ci abita. La sede dell'azienda è a Roma, gli stabilimenti a Orticola, in provincia dell'Aquila, nel cuore dell'Abruzzo. Lì si concepisce la casa, cioè si sviluppa l'idea che è alla base di ogni creazione e su quella si elabora il progetto. Dobbiamo conoscere esattamente il luogo dove deve essere realizzata, la morfologia del terreno, tutte le caratteristiche climatiche, l'esigenza del cliente, ovviamente le normative, e dobbiamo creare quindi il pezzo unico, ed è il passaggio più difficile. Quindi realizzato, oggi può comprendere che abbiamo tutte progettazioni 3D, multimediali, quindi riusciamo veramente a vedere l'oggetto prima di costruirlo. Quindi realizziamo una progettazione architettonica, viene approvata dal nostro cliente, dopodiché viene fatto invece tutto il processo esecutivo. Una grande struttura può avere migliaia e migliaia di pezzi, ognuno diverso dall'altro, che vengono gestiti attraverso un processo informatizzato, quindi post-processato direttamente in fabbrica a questi grossi macchinari a controllo numerico. E poi si va in cantiere, quindi che cosa succede? Dentro l'atelier noi realizziamo tutto, montiamo l'impianto elettrico, termico, idrico, tutto. La casa viene, la struttura, che sia un albergo, una villa, viene smontata in blocchi trasportabili e viene portata direttamente in cantiere. Lavorare a 50 km da casa o a 5.000 per noi non cambia nulla. Case in legno. Case che meglio di tutte interpretano il concetto di sostenibilità applicata all'edilizia. Un mercato in espansione, come racconta ancora Andrea Pagano, amministratore delegato dell'azienda. Credo che nel campo dell'edilizia sia uno dei settori che sta crescendo di più. Questo sicuramente anche perché il fatto dell'ecologia, della sostenibilità, ed è una unicità anche di Pagano, e la salubrità, perché adesso noi stiamo mettendo tutti i sistemi che controllano il PM2, PM10, insomma, che è molto importante. Quindi questo è un settore in crescita. L'unica cosa che nessuno riesce a portare un livello di architettura, di finitura per una fascia a medio alta. Di solito quando uno pensa a struttura ecologica, così si immagina magari un prodotto sostenibile ma non bello. Pagano invece punta e tutta la vita che vede il bello. Abbiamo un progetto stupendo vicino a New York, in East Hampton, abbiamo 3 cantieri in Svizzera, abbiamo 2 grossissimi progetti in campi da golf in Russia e quindi, come dire, siamo un'azienda con visione internazionale. Recentemente l'azienda romana, che iniziò l'attività lungo la costiera amalfitana costruendo carretti per la frutta e barche, ha stabilito un record. In Russia ha realizzato la casa in legno più grande mai costruita al mondo, quasi 8.000 metri quadrati, un capitolo della lunga storia di passione, di lavoro e di famiglia. È una casa unica, serre interne, cinema, insomma, una casa monofamiliare. È venuta perché, grazie a Dio, noi lavoriamo prevalentemente per il passaparola. Questo è fondamentale. Dopodiché si presentano da noi questi importantissimi clienti, ovviamente conoscono già dei nostri precedenti clienti, si affidano a noi, viene realizzato questo progetto su misura. Per dire, ci è voluto più a mettere a punto questo progetto che costruirla, perché i clienti sono molto esigenti. Dopodiché, una volta approvato il progetto, abbiamo lavorato tutto in fabbrica. Sono partiti 150 tir dall'Italia e in 4 mesi abbiamo consegnato la casa di 8.000 metri. 4 mesi di cantiere, più di un anno di produzione. Avete ascoltato Voci d'Impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.